C'era un cagnolino dove sono nato. Tu non ci crederesti mai che terrorizzava tutto il vicinato. Ed un bel giorno è morto, grande, poco più di un topo, ma con denti aguzzi che ti sembrava il conte Vlad. Lui spuntava fuori sempre all'improvviso, che ti prendeva un colpo. Ma poverino, non accusatelo, che lui è così piccolo e indifeso. Invece no, quel demone infernale faceva un tale chiasso che nessun mai dormiva più. Con la sua boccuccia abbaiava forte come uno squillo di tromba. Se lo incontravi per strada ti correva incontro ruggendo come un orso, e poi si fermava di colpo a un centimetro dal tuo polpaccio e restava lì a ghignare. Forse un guinzaglio sarebbe utile, ma la sua padroncina era contraria. No, non ti legherò, grande amore mio, non porrò un limite ai sogni tuoi. Tu che sarai sempre l'unico a capirmi come due facce, e se con la padrona era tranquillo e docile, appena si trovava un po' più lontano lui scatenava l'inferno. E ormai molti genitori di bambini umani erano sul piede di guerra, e già si vociferava che ci fosse il progetto di cucinarlo arrosto. Con i bambini lui è dolcissimo, mi sa che sono loro a provocare. Schianterò contro a quel muro, ma mano e la mia macchina era nuova. Attaccato alla vita, guardavo i suoi dentini ed ho tirato dritto.